later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli le norme igieniche vengono sistematicamente violate, Kappa e Drago sentono crescere dentro di loro una strana sensazione. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Kappa, cosa c'è? Non ti senti un po' strano? Ma sì, certo, Drago, sono settimane che a mezzanotte mi sento strano. Solo a mezzanotte? È sempre a mezzanotte. Sempre a mezzanotte? Il pollo in sbattimento, puntuale. E beh, mezzanotte. Oh my goodness! What's the matter? It's midnight. Hai capito, pollo in sbattimento? A mezzanotte Kappa si sente strano. Senti, però anch'io non mi sento tanto bene, non so, mi sento soddisfatto. Soddisfatto? Sì, però è una sensazione mista, cerca di capirmi, è una sensazione di soddisfazione e rimpianto. Come se mi mancasse un qualcosa di indescrivibile ma assolutamente importante. Non so, devi aiutarmi. Beh, ti senti come un gatto castrato. Cosa vuol dire come un gatto castrato? Beh, sì, forse se ci pensi. Come facciamo a sapere come si sente un gatto castrato? Beh, anche tu che sei un pollo non è che lo sai. Sì, uè, ho capito, però tu ricordi che io prima di essere un pollo ero negoziante di whisky, krautrock. Vabbè, krautrock, ma mica eri un gatto castrato. Vabbè, cioè, la sensazione del gatto castrato è un effetto della fabbrica. Sì. Cioè? Voi non ve ne accorgete. Ma di cosa? Ma vi state trasformando, Ma basta, ma sempre questa storia. Come? Sì, ma allora adesso vi spiego. Allora, la fabbrica di polli è una specie di organismo che vi trasforma. Tipo come fa lo stomaco col mangime, no? E con la paroxetina. Schifo. E in più adesso siete anche nella fase non episcopale. La cosa? La fase non episcopale. Ma cos'è? Cosa vuol dire? Un periodo di dedizione alla bestemmia. Cosa vuol dire non episcopale? Beh, uè, Pollastri. No, perché ti sembra che a forza di stare qui a papparvi uova di galline nutrite a mangime pieno di oli esausti? Cosa? Quali oli esausti? Oli da macchina, non di frantoio. Però almeno di marca buona. Sì, questo fa le battute. Intanto noi mangiamo l'olio che il vostro benzinaio toglie dalla macchina dopo 10.000 chilometri. E poi voi, a forza di mangiare le schifezze di noi polli, diventate come un gatto castrato. Che dici? Sì, non avete più tutto quell'entusiasmo, quell'eccitazione episcopale di prima. Entusiasmo, eccitazione episcopale? Episcopale. In effetti tu, Drago, hai fatto più niente episcopale? No. Non ho più avuto testa episcopale. Nemmeno io. Eppure prima avrei fatto qualunque cosa episcopale. Non dirlo a me. Episcopale. Invece adesso no. Sì, siete nella fase non episcopale. Beh, ce l'ho avuto anch'io, la fase non episcopale. E quanto ti è durata? Un bel po'. No, in realtà non mi è più passata. No. Ma no. Se devo dire la verità, ma così. No. Sì, infatti adesso è uno sbattimento. E che sbattimento, No, perché le gallinelle mi mandano uno sbattimento che poi è un'angoscia. Episcopale. Magari. I tempi episcopali. O tempi episcopale. Meno male che prendo la paroxetina, però. Almeno quella sostituisce quella che alla fine è una sacrosanta soddisfazione episcopale. Abbiamo tutti diritto, no? Episcopale. Voglio una zebra, una cavalla, una leonessa. Voglio cambiare specie, sono stufo della stessa. Voglio una mucca piena di mammelle, una capretta con le gambette snelle. Voglio una gatta, una civetta, una pecorina. una maiala e basta con la solita gallina. E chiedo ufficialmente di essere incrociato, chiedo ufficialmente di essere geneticamente modificato. Voglio far l'amore con tutte le specie del creato. Chiedo di essere adottato, chiedo di essere allattato, chiedo di essere insultato e chiedo di essere frustato. Voglio essere un pollo in un mondo di sesso beato. Voglio il mix-ex dei polli. Polli, fortissimamente polli. La fabbri, polli. Trasmettiamo un elenco di vocaboli della lingua italiana con iniziale la lettera C. Abbecedario. Farfalla. Televisione. Abbiamo trasmesso un elenco di vocaboli della lingua italiana con iniziale la lettera C. In the middle of nowhere. La fabbrica dei polli. E quindi io dico, ho scelto, faccio una vita episcopale e basta. La faccio, mangio, dormo, vado al cinema e resto episcopale. Episcopale. E basta. E non è che sono lì a dirmi, oddio, oddio, adesso, che paranoia, la proxetina, il vino, il whisky. Ma no, basta episcopale. Episcopale. Basta, semplicemente episcopale. E lei, se episcopale con un altro, è una stronza. Però no, no, perché se tu fai la tua vita episcopale, anche lei fa la sua vita episcopale. Quindi se lo scopo della vostra vita, tua e di lei, è episcopale, e ti lamenti se lei poi magari una settimana, si fa una settimana episcopale con un altro, tu invece magari ti prendi la tua macchina, vai da qualche parte, trovi qualcuna, episcopale. Episcopale. Perché poi episcopale se ne trovano tante. Però, quella giusta non è facile. Perché se becchi quella episcopale che ti sembra episcopale e basta, poi dopo, il giorno dopo, non è più episcopale e dice, ma tu avevi detto che mi guardavi con quegli occhi, sai com'è? E poi tu vai in sbattimento. Se tu fai una vita episcopale, non ti devi lamentare. Io ho avuto il mio periodo episcopale, ma poco qua in fabbrica, se vuoi fare, se vuoi avere una vita episcopale, non hai, non è mica facile. E no, perché qui è tutto organizzato. Cioè, non è che tu puoi avere la tua vita episcopale autonoma. Ah, adesso io incomincio la mia vita episcopale, mi guardo intorno, magari quando sono in ambulatorio in coda, e vedo una gallina e dico, beh, insomma, una vita episcopale non sarebbe neanche poi male. Non puoi fare così. E no, perché solo quando dicono loro che magari una volta è il tuo turno, ti sbattono tutto assonnato perché ti beccano di notte mentre stai dormendo. Tu dormi e dici, vieni che devi fare episcopale. Cosa? Io sono ancora intontito la proxetina, mi sbattono una gabbia con sette galline e non so neanche queste, mi dicono, allora, dico, allora cosa? Io mi sono appena svegliato, non ho capito. E poi dopo ho capito che vogliono, che loro volevano episcopale. Perché a loro sembra di... che poi non c'è affetto, Che cosa succederà adesso? Kappa e Drago troveranno un modo episcopale nella fabbrica di polli? Episcopale. Se la cosa vi intriga, fatevi trovare pronti domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo degenerante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Bar numero